America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. The president was also watching very closely that vote that is still ongoing in the House, but the budget has passed. I expect that we'll probably hear from him on Twitter. Beh, una svolta, ieri c'è stata una svolta importante alla Camera. Perché? Beh, perché finalmente è stato approvato il bilancio 2018. Il bilancio che era già stato passato al Senato è stato confermato dalla Camera. Perché è molto importante questa legge finanziaria? Ma perché di fatto apre la strada per la riforma fiscale, perché dà un inquadramento sia sul piano del voto politico, e cioè dentro questo progetto di legge si dice che sarà necessaria soltanto una maggioranza semplice di 50 voti al Senato e non dei due terzi, e dunque con la necessità di recuperare anche dei voti democratici. Quindi la strada per una riforma fiscale dovrebbe essere molto più spianata, molto più semplice. Basta una maggioranza semplice, cioè 50 voti più il voto se necessario. Se non dovessero essere 51 i voti dei repubblicani, che potrebbero essere, ci sarà pur sempre il voto del vicepresidente Pence. Numero due. Questa proposta di legge di fatto dà uno stanziamento molto preciso per 1.500 miliardi di dollari da qui ai prossimi 10 anni, su cui si potrà agire per fare una riduzione del carico fiscale sui cittadini americani. Dunque, questo bilancio è costruito in modo tale da prevedere potenziali disavanzi pubblici cumulativi fino a 1.500 miliardi che possono essere utilizzati appunto per il taglio di tasse che ha promesso Donald Trump e che i repubblicani promettono ormai da qualche decennio. Ecco, detto tutto questo, il quadro naturalmente è positivo, la borsa anche ha reagito molto bene, perché questa anelata riforma fiscale non arrivava mai, e già la settimana prossima, già mercoledì, dovrebbe esserci una riunione che possa in qualche modo esprimere un blueprint, come dire, un progetto molto più concreto da portare, se non al voto, ma comunque alla riconciliazione delle commissioni. Ma detto tutto questo, beh, ci sono anche alcuni problemi, alcuni di questi talmente gravi che, beh, potrebbero addirittura far esplodere una guerra civile negli Stati Uniti d'America. On this vote, the yeas are 216, the nays are 212. The motion is adopted without objection. The motion to reconsider is laid on the table. Sì, ho usato il termine guerra civile, forse è un termine un po' forte, perché la guerra civile americana ha fatto 1.264.000 morti. Qui naturalmente non parliamo di uno scontro cruento, ma di uno scontro fra stati. Perché? Ed è questo il primo problema. Perché nel contesto di questa riforma fiscale si prevede che i soldi che mancano, perché alla fine i soldi mancano sempre, si potranno recuperare questi soldi che mancano eliminando il vantaggio per i residenti di alcuni stati americani di poter dedurre le tasse statali e cittadine dalla loro dichiarazione dei redditi federali. Ecco, ma mi rendo conto è complicato. Cioè, come funziona l'America? Ci sono tre livelli di tassazione. Un livello federale, e quindi noi ci eccitiamo molto quando diciamo ma il massimo, l'aliquota massima in America è il 39%. Ok, 39%, però in uno stato come New York dovete aggiungere circa il 10-11% di tassa statale e un altro 4-5-6% di tassa cittadina. Sono tutte tasse separate che si accumulano le altre tasse. Finora come funzionava il meccanismo? Che dal reddito si potevano dedurre le tasse statali e cittadine prima di pagare le tasse federali. Cioè c'era una possibilità di dedurre dal montante complessivo della tassa federale le tasse statali e le tasse cittadine. E dunque si finiva per pagare un pochino di meno, anzi abbastanza di meno. Ecco, quello che succede è che se questa clausola viene tolta, i residenti di quegli stati che hanno delle tasse statali e cittadine elevate si troveranno a far fronte, beh, a un carico fiscale enorme. Quali sono questi stati? Per esempio New York, per esempio New Jersey. Guarda caso degli stati che non vanno necessariamente d'accordo con Donald Trump. E che è successo in questo voto di ieri? Questa è una cosa che mi ha molto colpito. Che 11 deputati repubblicani dello stato di New York hanno votato contro questa proposta di legge. 11 repubblicani di New York. Perché? Beh, perché ovviamente difendono prima di tutto la loro constituency, difendono prima di tutto la loro base elettorale, e quindi i cittadini di New York sono furibondi dall'idea che debbano essere loro a sostenere uno dei pesi principali di quella che sarà una riduzione fiscale che andrà a vantaggio degli altri loro, chiamiamoli fratelli, americani. Ecco, già in partenza una proposta di riforma fiscale che va a gravare più su alcuni stati per portare un vantaggio ad altri stati, secondo me non funziona. E qui ci saranno dei problemi. I problemi saranno cumulativi perché la maggioranza e la Camera è stata risicata, 216 voti contro 212. Per 4 voti è passata questa proposta. Questo significa che il dibattito anche all'interno del Partito Repubblicano è molto forte, è molto duro. Altro punto, questo ve l'ho raccontato già nei giorni scorsi, Donald Trump ha promesso che non si toccherà assolutamente la possibilità di dedurre dal reddito una quota, parte, che sarà destinata a una specie di TFR, una specie di fondo pensione. Anche questa parte, questo piccolo gruzzolo, finora non è mai stato tassato. I repubblicani vorrebbero tassarlo. Donald Trump ha già detto di no. Questo per dirvi che cosa? Che dentro lo stesso campo repubblicano non c'è una visione unitaria, non c'è una posizione comune. Secondo me gli ostacoli alla fine saranno superati. Per esempio, il progetto originario dei repubblicani prevedeva un taglio cumulativo di 2.000 miliardi di dollari. A disposizione ce ne sono soltanto 1.500. Su 500 miliardi di dollari da ridistribuire lungo 10 anni ci si mette d'accordo. Ma sulla questione politica, beh, quello è un argomento molto più difficile. Nel momento in cui abbiamo divisioni fra gli stati e divisioni all'interno del Partito Repubblicano, ci rendiamo conto che alla fine la coperta è molto corta. E quando la coperta è corta, beh, il rischio di prendersi un brutto raffreddore, se non una polmonite, devo dire, è piuttosto elevato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che nei momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, qualche giorno fa è mancato purtroppo Fats Domino. Per molti di voi sarà un nome sconosciuto, ma è un nome chiave per la storia della musica americana. È un grande artista del rhythm and blues, un uomo che ha portato ore lietissime con la sua grande musica negli anni 40, nell'America degli anni 40, degli anni 50, quell'America innocente che oggi non riconosciamo più perché purtroppo il cinismo prevale ormai dappertutto. E dunque The Fats Domino, sperando che possa far sognare anche voi, che possa prepararvi a un weekend di relax e non di tensione, Blueberry Hill, grande classico, grande musica, canzone per me meravigliosa. I found my thrill. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!